E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Da sempre snobbata dai puristi, la mezza bottiglia di vino torna alla ribalta grazie alla crisi e alle nuove abitudini enogastronomiche. Piccolo è bello. Negli ultimi anni, segnati dalla diminuzione costante nei consumi enologici, i produttori di vino hanno ridotto prezzi e formati cercando di cavalcare l'onda della nuova cucina, con i suoi sapori originali e diversi, perfetti per avvicendare i vini tra un piatto e l'altro. Un ragionamento semplice semplice. Se la gente non vuol più spendere per comprare le tradizionali bottiglie da 75 centilitri, in enoteca come al ristorante, si spera faccia meno fatica a prezzi e quantità dimezzati. È arrivata così anche in Italia la politica del formato mini, sperimentata e acquisita fin dagli anni 50 in Francia, dove il piacere di assaggiare e cambiare vini, meglio se di alto profilo, fa parte della cultura alimentare del paese. Quella stessa cultura che induce anche i ceti sociali meno abbienti a regalarsi una tantum un pranzo in un ristorante stellato. Non a caso il verbo «se régaler» è riferito ai piaceri enogastronomici. Passare dal sontuoso Petrus formato tascabile agli altrettanto strepitosi mini Gaia ha democratizzato il concetto stesso di degustazione. Svincolato dall'obbligo della bottiglia intera, il mondo degli appassionati ha potuto sperimentare il piacere di confrontare grandi bicchieri di produttori diversi a prezzi praticamente dimezzati. Coniugare finanze e curiosità enologica ha funzionato talmente bene da indurre un numero crescente di cantine a produrre i formati da 37 centilitri. Rapidamente si sono adeguati anche wine bar e ristoranti, con intere sezioni delle carte dei vini, da quella monumentale dell'enoteca Pinchiorri in giù, dedicate in esclusiva a vini e champagne a bottiglia dimezzata. Non tutti però si sono fatti travolgere dall'entusiasmo per il formato mini, perché se è vero che i vini pregiati danno il meglio di sé nel formato magnum, 150 centilitri, ridurre il contenuto a un quarto difficilmente ne incrementa la qualità. Evidentemente diverso il discorso dei vini dolci, che per tradizione sono imbottigliati in quantità ridotte, quasi sempre non oltre il mezzo litro. Per questo, la scelta delle mezze bottiglie si è risolta spesso in un obbligo di presenza in quella fascia di mercato, mentre molti vignaioli, grandi barolisti e brunellisti in primis, hanno evitato di farsi coinvolgere. Sono stati loro, gli irriducibili dei tre quarti, i primi a godere delle macchine a compensazione di azoto. Arrivate sul mercato quasi alla chetichella, oggi rappresentano la longa mano dei sommelier, che possono sbizzarrirsi nel proporre super vini al bicchiere, tenendo lontano l'incubo dell'ossidazione per il liquido che rimane nella bottiglia. Funziona così. L'ossigeno che riempie il vuoto lasciato dal vino versato viene sostituito dall'azoto, gas inerte, che nulla cede e nulla consente. L'azoto, che allo stato liquido, meno 196 gradi, è ormai entrato in molte cucine d'autore per preparare meravigliose creme e praline all'istante, garantisce al vino la conservazione di tutte le sue migliori caratteristiche per più di una settimana, dando ampio margine a camerieri e ristoratori di terminare la mescita della bottiglia. I primi esemplari di Enomatic, più funzionali che belli a vedersi, hanno faticato a trovare spazio tra gli arredi di design dei ristoranti bomboniera più pronti a sposare la nuova tecnologia, tra menù con degustazione a bicchiere e piatti sfiziosi da scegliere in base all'innamoramento vinicolo del momento. Per fortuna, da ingombranti, le nuove macchine si sono fatte sinuose e leggere, fino a ridursi al formato single, che permette di portare la bottiglia con il suo tappo all'azoto in tavola. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Licia Granello, Vino, la mezza bottiglia ora piace anche al doc. Da Repubblica, del 25 marzo. Nel suo libro inchiesta alla Fiera delle Sanità, Daniela Minerva traccia una radiografia del sistema sanitario nazionale. Uno dei capitoli è dedicato al rapporto tra assistenza pubblica e attività privata. Il professore lo trova entro le 11, poi va via. Va via? E dove va? Perché mai lascia il posto di lavoro dopo al massimo 2 o 3 ore di attività quando è un dipendente della regione, un dipendente pubblico con obblighi di servizio del tutto analoghi a quelli degli altri dipendenti pubblici? Basta farsi un giro nelle case di cura o nei grandi ospedali privati per capire dove è andato il professore. Basta fare un salto dove il professore fa studio, ovvero visita i pazienti privatamente. Perché è in quelle strutture belle, pulite, efficienti che passano il loro tempo circa 40.000 medici italiani dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Si chiama attività privata. Ma loro, i medici italiani, assolutamente tutti, anche quelli che hanno lavorato e lavorano solo per il Servizio Sanitario Nazionale, anche quelli che combattono le furberie dei dottori che ricevono in studio per fare soldi, la chiamano attività libero professionale. È un malcostume intollerabile, ma tutti i medici pensano che sia un diritto, un vero e proprio diritto naturale, quello di coltivarsi una clientela privata che paghi i servizi che essi rendono all'interno di un tempo già retribuito dalla collettività. Dietro questa difesa dell'attività libero professionale c'è la presunta libertà del medico di vedere i malati quando, come e dove vuole, un po' come fosse un antico sacerdote che non può avere vincoli alla sua opera benefica, unita a una consapevolezza della categoria di essere pagata poco. La questione del sapiente guaritore, che non può avere lacci e lacciuoli, è un po' anacronistica e quella economica è mal posta. Basta fare un semplice conto. Se tutti i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale lavorassero le 7 ore e poco più che prevede il loro contratto, è molto probabile che sarebbe sufficiente tenerne in servizio di meno e che gli si potrebbe retribuire meglio. Inoltre, le liste d'attesa si accorcerebbero parecchio e i pazienti sarebbero più soddisfatti. Di contro, chi non lavora per il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe operare a pieno nell'ospedalità privata e con essa stipulare contratti alla luce del sole, con contributi previdenziali e fiscali. L'intera faccenda sarebbe molto più trasparente. D'altra parte, è così che funziona per tutte le categorie di lavoratori. Ve lo immaginate un manager della Fiat che alle 12 corre a prestare servizio in BMW? Un cassiere del Banco di Napoli che il pomeriggio sta allo sportello di Banca Intesa? O un giornalista dell'Espresso che il mattino lavora a Panorama? Naturalmente prendendo stipendio e contributi dall'azienda di elezione. Palesemente è pazzesco. Non solo. Almeno 35.000 di quei 40.000 dottori che svolgono attività privata hanno scelto di lavorare in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale. Ma che razza di esclusiva è se poi vanno a lavorare in un'altra clinica o in uno studio lontano dalla struttura sanitaria che paga lo stipendio per il tempo pieno? Non sarebbe una domanda irragionevole, se a consentirlo non fosse proprio la legge con cui il Servizio Sanitario Nazionale accetta di riconoscere ai suoi dipendenti un salario maggiorato da un'indennità d'esclusiva, ma poi, visto che le strutture ospedaliere sono orribili e insufficienti e che comunque la paga non è ricca, consente loro di svolgere la propria attività dove credono. La chiamano intramenia allargata, ma è una faccenda incongrua e sospetta di imbrogli. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Daniela Minerva, La Fiera delle Sanità, Rizzoli Editore, 380 pagine, 12,50 €. Salviamo i negozi di dischi. È l'appello dei piccoli rivenditori indipendenti che il 18 aprile in tutto il mondo festeggeranno il Record Store Day, evento nato negli USA nel 2007, arricchito l'anno scorso da un'esibizione dei Metallica a San Francisco, www.recordstoreday.com. Coinvolte in Italia una quarantina di insegne, tra cui Disco Più a Roma e Psycho a Milano. Degli striscioni in vetrina sottolineeranno l'importanza dei negozi di dischi in quanto luoghi in cui il confronto, l'esperienza e il rapporto umano fanno diventare la musica vita. Come dimostrano i dati di FISMED Confesercenti, Federazione Italiana Strumenti Musicali Elettronici e Dischi, e FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, il settore è in crisi da tempo. Ma quali sono i numeri reali? Dal 2005 a oggi i negozi di dischi italiani specializzati sono passati da circa 3.650. Soffrono anche grandi marchi come Virgin. Alla recente chiusura del megastore di Times Square a New York seguiranno quelle degli altri punti vendita americani della catena entro l'estate. Dal 2007 al 2008 il fatturato dell'industria discografica è calato del 21%, passando da 224 milioni di euro a 178. Il mercato del CD ha fatturato l'anno scorso 156,2 milioni di euro contro i 197,6 del 2007, calo del 21%, mentre le vendite sul canale digitale, mobile e internet sono salite del 4%, da 15,2 milioni di euro a 15,7, da 15,2 milioni di euro a 15,7 e i download dal web del 37%. Ciò nonostante, nel 2008 la vendita di CD ha rappresentato ancora quasi il 90% del commercio di musica in Italia e il mercato del vinile, seppur di nicchia, è in ripresa e ha fatturato 1,55 milioni di euro, con un incremento del 232% rispetto al 2007. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raffaella Oliva, Salva anche tu il disco, dal numero 16 del settimanale Vanity Fair. Dopo la generazione X arriva la generazione Y. Che speranze ci sono per i techno-ager, i giovani che stanno per affacciarsi sul mondo del lavoro? Il nostro percorso è stato carosello, mangiadischi, esame di maturità e, benché sia andata, viaggio a Carnaby Street a vedere da vicino i capelloni. Il loro, invece, cartoni animati, videogiochi, internet, Facebook, viaggi virtuali in Second Life e reali con l'Erasmus, sempre con iPod e iPhone. Loro sono i nati nella seconda metà degli anni Ottanta, la generazione Y, i techno-ager, vittime consapevoli degli stimoli elettronici che li circondano. Si affacciano ora al mondo del lavoro, molti con la certezza di non trovare una collocazione superiore a quella dei loro genitori, nonostante studi anche di prima qualità. Grande rapidità di intuizione, l'allenamento al trial and error, pragmatismo e innovazione, ambizione e negoziabilità nei confronti delle offerte aziendali. Sostituiranno nei prossimi anni 50 milioni di lavoratori di alto livello, secondo le stime di Conference Board statunitense. Sostituiranno nei prossimi anni 50 milioni di lavoratori di alto livello, secondo le stime del Conference Board statunitense, e anche nel nostro paese saranno i talenti professionali del futuro, circa il 30% della popolazione occupata a Roma e Milano. Accanto a un'alta produttività, che spesso include la disponibilità di lavorare durante il weekend e nelle ore serali, c'è l'aspettativa di disporre di una maggiore autonomia e indipendenza nell'organizzare i propri ritmi di lavoro. La generazione Y detta nuove condizioni ai gestori delle risorse umane, imponendo una cultura organizzativa diversa da quella interiorizzata dai genitori e grande nomadismo, tipico di un mondo con pochi confini. Occorrerà migliorare anche nelle aziende, così come è avvenuto in famiglia, il dialogo transgenerazionale, cercando proficua collaborazione e tolleranza reciproca. E le generazioni X dei baby boomers, oggi nelle posizioni gerarchiche di potere, dovranno superare un diffuso stereotipo nei confronti di questi nuovi leader, spesso liquidati come distratti, superficiali e un po' nichilisti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Severino Salvemini Ai vostri posti, nuovi nomadi, dal numero 8 aprile 2009 di IL, Intelligence in Lifestyle, mensile venduto in abbinamento al Sole 24 Ore. Letture di Radio 24. Sulle macerie dell'Abruzzo grava lo spettro della malavita, già pronta ad entrare nel business della ricostruzione. Ne è convinto Roberto Saviano, che nei giorni scorsi è tornato all'Aquila, la prima città italiana ad averlo insignito della cittadinanza onoraria. Non permetteremo che ci siano speculazioni, scrivilo. Dillo forte che qui non devono neanche pensarci di riempirci di cemento. Qui decideremo noi come ricostruire la nostra terra. Al campo rugby mi dicono queste parole. Me le dicono sul muso, naso vicino al naso, mi arriva l'alito. Le pronuncia un signore che poi mi abbraccia forte e mi ringrazia per essere lì. Ma la sua paura non è finita con il sisma. La maledizione del terremoto non è soltanto quel minuto in cui la terra ha tremato, ma ciò che accadrà dopo. Gli interi quartieri da abbattere, i borghi da restaurare, gli alberghi da ricostruire, i soldi che arriveranno e rischieranno non solo di rimarginare le ferite, ma di avvelenare l'anima. La paura per gli abruzzesi è quella di vedersi spacciare come aiuto una speculazione senza limiti nata dalla ricostruzione. Qui in Abruzzo mi è tornata alla mente la storia di un abruzzese illustre, Benedetto Croce, nato proprio a Pescasseroli, che ebbe tutta la famiglia distrutta in un terremoto. Eravamo a tavola per la cena, io, la mamma, mia sorella e il babbo che si accingeva a prendere posto. A un tratto, come alleggerito, vidi mio padre ondeggiare e subito in un baleno sprofondare nel pavimento stranamente apertosi, mia sorella schizzare in alto verso il tetto. Terrorizzato, cercai con lo sguardo mia madre che raggiunsi sul balcone, dove insieme precipitammo e io svenni. Benedetto Croce rimase sepolto fino al collo nelle pietre. Per molte ore il padre gli parlava, prima di spegnersi. Si racconta che il padre gli ripeteva una sola e continua raccomandazione: offri 100.000 lire a chi ti salva. Gli abruzzesi sono stati salvati da un lavoro senza sosta che nega ogni luogo comune sull'italianità pigra o sull'indifferenza al dolore. Ma il prezzo da pagare per questa regione potrebbe essere altissimo, ben oltre le 100.000 lire del povero padre di Benedetto Croce. Il terrore di ciò che è accaduto all'Irpinia quasi 30 anni fa, gli sprechi, la corruzione, il monopolio politico e criminale della ricostruzione, non riesce a mitigare l'ansia di chissà cosa è il cemento, cosa portano i soldi arrivati non per lo sviluppo, ma per l'emergenza. Ciò che è tragedia per questa popolazione, per qualcuno invece diviene occasione, miniera senza fondo, paradiso del profitto. Progettisti, geometri, ingegneri e architetti stanno per invadere l'Abruzzo attraverso uno strumento che sembra innocuo, ma è proprio da lì che parte l'invasione di cemento. Le schede di rilevazione dei danni patiti dalle case. In questi giorni saranno distribuite agli uffici tecnici comunali di tutti i capoluoghi d'Abruzzo centinaia di schede per migliaia di ispezioni. Chi avrà in mano quel foglio avrà la certezza di avere incarichi remunerati benissimo e alimentati da un sistema incredibile. Più il danno si fa grave in pratica, più guadagni, mi dice Antonello Caporale. Arrivo in Abruzzo con lui. È un giornalista che ha vissuto il terremoto dell'Irpinia e la rabbia da terremotato non la togli facilmente. Per comprendere ciò che rischia l'Abruzzo si deve partire proprio da lì, dal sisma di 29 anni fa, da un paese vicino a Eboli. Ad Auletta, dice il vice sindaco Carmine Cocozza, stiamo ancora liquidando le parcelle del terremoto. Ogni 100.000 euro di contributo statale, l'onorario tecnico globale è di 25.000. Ad Auletta, quest'anno, il governo ha ripartito ancora somme per il completamento delle opere post-sisma, 80 milioni di euro in tutto. Il mio comune ne ha ricevuti 2.500.000, serviranno a realizzare le ultime case, a finanziare quel che è rimasto da fare. Difficile immaginare che dopo 29 anni ancora arrivino soldi per la ristrutturazione, ma è ciò che spetta ai tecnici, il 25% del contributo. Ci si arriva calcolando le tabelle professionali, naturalmente tutto è fatto a norma di legge. Costi di progettazione, di direzione lavori, oneri per la sicurezza, per il collaudatore. Si sale e si sale. Le visite sono innumerevoli. Il tecnico dichiara e timbra. Il comune provvede solo a saldare. Il rischio della ricostruzione è proprio questo. Aumenta la perizia del danno, aumentano i soldi, gli appalti generano subappalti e ciclo del cemento. Movimento terre, ruspe e costruzioni attireranno l'avanguardia delle costruzioni in subappalto in Italia. I clan. Le famiglie di Camorra, di Mafia e di 'Ndrangheta qui ci sono sempre state. E non solo perché nelle carceri abruzzesi c'è il gota dei capi della Camorra imprenditrice, Il rischio è proprio che le organizzazioni arrivino a spartirsi in tempo di crisi i grandi affari italiani. Ad esempio, alla 'Ndrangheta, all'Expo di Milano, e alla Camorra, la ricostruzione in subappalto dell'Abruzzo. L'unica cosa da fare è la creazione di una commissione in grado di controllare la ricostruzione. Il presidente della provincia, Stefania Pezzopane, e il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, sono chiari. Non vogliamo essere controllati. Vogliamo che ci siano commissioni di controllo. Qui i rischi di infiltrazioni criminali sono molti. Da anni i clan di Camorra costruiscono e investono. E per un bizzarro paradosso del destino, proprio l'edificio dove è rinchiusa la maggior parte di boss investitori nel settore del cemento, ossia il carcere dell'Aquila, circa 80 in regime di 416 bis, è risultato il più intatto, il più resistente. I dati dimostrano che la presenza dell'invasione di Camorra nel corso degli anni è enorme. Nel 2006 si scoprì che l'agguato al boss Vitale era stato deciso a tavolino a Villa Rosa di Martinsicuro, in Abruzzo. Il 10 settembre scorso, Diego Leon Montoya Sanchez, il narcotrafficante inserito tra i 10 most wanted dell'FBI, aveva una base in Abruzzo. Nicola Del Villano, cassiere di una consorteria criminal imprenditoriale degli Zagaria di Casa Pesenna, era riuscito in più occasioni a sfuggire alla cattura e il suo rifugio era stato localizzato nel Parco Nazionale d'Abruzzo, da dove si muoveva liberamente. Gianluca Bidognetti si trovava qui in Abruzzo quando la madre decise di pentirsi. L'Abruzzo è divenuto anche uno snodo per il traffico dei rifiuti, scelto dai clan per la scarsa densità abitativa di molte zone e la disponibilità di cave di messe. L'inchiesta Ebano fatta dai carabinieri dimostrò che alla fine degli anni 90 vennero smaltite circa 60.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani provenienti dalla Lombardia. Finiva tutto in terre abbandonate e cave dismesse in Abruzzo. Dietro tutto questo, ovviamente, i clan di Camorra. Sino ad oggi l'Aquila non ha avuto grandi infiltrazioni, proprio perché mancava la possibilità di grandi affari. Ma ora si aprì una miniera per le imprese. La solidarietà per ora fa argine ad ogni tipo di pericolo. Al campo del Paganica Rugby mi mostrano i pacchi arrivati da tutte le squadre di rugby d'Italia e i letti allestiti da rugbisti e volontari. Qui il rugby è lo sport principale, anzi lo sport sacro. Ed è infatti la palla ovale che alcuni ragazzi si lanciano in passaggi ai lati delle tende, che mi passa sulla testa appena dentro. Ed è infatti la palla ovale che alcuni ragazzi si lanciano in passaggi ai lati delle tende, che mi passa sulla testa appena entro. Ed è dal rugby che in questo campo sono arrivati molti aiuti. La resistenza di queste persone è la malta che unisce volontari e cittadini. È quando ti rimane solo la vita e nient'altro, che comprendi il privilegio di ogni respiro. Questo è quello che cercano di raccontarmi i sopravvissuti. Il silenzio dell'Aquila spaventa. La città evacuata a ora di pranzo è immobile. Non capita mai di vedere una città così. Pericolante, piena di polvere. L'Aquila in queste ore è sola. I primi piani delle case, quasi tutti, hanno almeno una parte esplosa. Avevo un'idea del tutto diversa di questo terremoto. Credevo avesse preso soltanto il borgo storico o le frazioni più antiche. Non è così. Tutto è stato attraversato dalla scossa. Dovevo venire qui e il motivo me lo ricordano subito. Te lo sei ricordato che sei un aquilano, mi dicono. L'Aquila fu una delle prime città, anni fa, a darmi la cittadinanza onoraria. E qui se lo ricordano e me lo ricordano come un dovere. Presidiare quello che sta accadendo, raccontarlo, tenere memoria. Mi fermo davanti alla casa dello studente. In questo terremoto sono morti giovani e anziani. Quelli che a letto si sono visti crollare il soffitto addosso o sprofondare nel vuoto e quelli che hanno cercato di scappare per le scale, l'ossatura più fragile del corpo di un palazzo. I vigili del fuoco mi fanno entrare a donna. Sono fortunato, mi riconoscono e mi abbracciano. Sono sporchi di polvere e soprattutto fango. Non amano che si ficchino i giornalisti dappertutto. Poi li devo andare a pescare che magari cade un soffitto e rimangono incastrati, mi dice un ingegnere romano, Gianluca, che mi fa un regalo che avrebbe fatto impazzire qualsiasi bambino, un elmetto rosso fuoco dei vigili. Onna non esiste più. Il termine macerie è troppo usato. È come se non significasse più nulla. Mi segno sulla Moleskine gli oggetti che vedo. Un lavabo finito a terra, un libro fotocopiato, un passeggino, ma soprattutto lampadari, lampadari, lampadari. In verità è quello che non vedi mai fuori da una casa. E invece qui vedi ovunque lampadari. I più fragili, gli oggetti che per primi hanno dato spesso inutilmente l'allarme del terremoto. È una vita ferma e crollata. Mi portano davanti la casa dove è morta una bambina. I vigili del fuoco sanno ogni cosa. Questa casa, vedi, era bella, sembrava ben fatta. Invece era costruita su fondamenta vecchie. Si è fatto poco per controllare. La dignità estrema di queste persone me la raccontano i vigili del fuoco. Nessuno ci chiede niente. È come se per loro bastasse essere rimasti in vita. Un vecchietto mi ha detto: «Mi puoi chiudere le finestre, se no entra la polvere». Io sono andato, ho chiuso le finestre, ma alla casa mancano tetto e due pareti. Qui alcuni non hanno ancora capito cosa è stato il terremoto. Franco Arminio, uno dei poeti più importanti di questo paese, il migliore che abbia mai raccontato il terremoto e ciò che ha generato, scrive in una sua poesia: 25 anni dopo il terremoto, dei morti sarà rimasto poco, dei vivi ancora meno. Siamo ancora in tempo perché in Abruzzo questo non accada. Non permettere che la speculazione vinca come sempre successo in passato è davvero l'unico omaggio vero, concreto, ai caduti di questo terremoto, uccisi non dalla terra che trema, ma dal cemento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Saviano, Il partito del cemento che assedia l'Abruzzo, da Repubblica del 14 aprile.